Dialogo 3. Raccontò Abu Huraira: l'apostolo di Allah così parlò: se davanti alla casa di un uomo scorrono le acque di un fiume e quell'uomo fa il bagno nel fiume 5 volte al giorno, pensate voi che ci sarà della sporcizia sul suo corpo? I presenti risposero: no, di certo non ci sarà sul corpo di quell'uomo la benché minima traccia di sporcizia. Udita la risposta, l'apostolo di Allah concluse: vi ho fatto l'esempio delle devozioni quotidiane obbligatorie, cioè i riti di adorazione, per mezzo delle quali Allah monda l'anima dai peccati.